Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, cade il governo Rattazzi, tocca a Luigi Carlo Farini. E di nuovo crisi di governo. Non è bastata l'amnistia per i garibaldini e per il generale a salvare la poltrona di Urbano Rattazzi. Il politico piemontese chiamato lo scorso 6 marzo a sostituire il barone di Ferro, il toscano Bettino Ricasoli, ha fallito nel compito che il re gli aveva di fatto affidato: ridare fiato a una politica cavuriana tutta movimento, accelerazioni e frenate. È stato infatti proprio per l'ambigua condotta nella vicenda dell'Aspromonte che il governo ha perso la faccia. Troppo permissivo, addirittura troppo connivente prima, troppo duro e persecutorio poi, con il risultato che riempire le galere di volontari in camicia rossa ha provocato proteste e manifestazioni, mentre la maggioranza in Parlamento si è assottigliata al punto da rendere impossibile la vita all'esecutivo. L'ultima mossa è stato un tentativo disperato. Con una nota del ministro degli esteri Durando inviata ai governi europei, l'esecutivo ha cercato di far passare la vicenda dell'Aspromonte come un effetto destabilizzante della politica di protezione dello Stato e della Chiesa, adottata in particolare da Napoleone III. Ma all'estero la cosa non ha sortito effetto e a novembre, riapertasi la Camera, l'opposizione si è scatenata. La parte della sinistra che sosteneva il governo gli ha voltato la faccia, la destra lo ha messo in croce. Il 20, un'interpellanza del deputato toscano Boncompagni ha posto il tema delle condizioni politiche generali del paese. La battaglia è durata 10 giorni, con Rattazzi molto vivace nel difendersi, ma i deputati Mordini e Nicotera hanno messo il presidente del Consiglio spalle al muro. Il 29 Rattazzi ha annunciato le dimissioni, dichiarando di cadere per l'energia con cui aveva voluto difendere le prerogative della corona e del Parlamento. Il re comunque ha cercato di sostituirlo con un esecutivo di transizione non palesemente anti-rattazziano. L'incarico è stato dato prima al conte Ponza di San Martino, poi a Giovan Battista Cassinis e quindi a Giuseppe Pasolini. Tutti e tre hanno fallito. Chi è riuscito è l'emiliano Luigi Carlo Farini, con Pasolini agli esteri e Minghetti alle finanze, Peruzzi agli interni. Ma il ministero non pare molto solido. Qualcuno in Parlamento sostiene che il presidente del Consiglio non stia affatto bene. Per quello che si è visto fino ora alla Camera rimane spesso imbambolato, non prende la parola, guarda nel vuoto. Tra i deputati si dice che il re lo abbia scelto proprio per questo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.